Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Bentrovati, Luca Tremolada al microfono. Oggi torna a trovarci una vecchia gloria, mi viene a dire, ma non è vecchio assolutamente. Siamo in collegamento con Giampaolo Colletti, quello dei WWW Workers, ma anche quello della televisione Fai da te, insomma, scrittore, sociologo, quante cose sei? Troppo buono Luca, troppo buono. Per oggi mi dedico ai WW Workers, ai nostri amici che decidono di mettersi in proprio lasciando il posto fisso. Ecco, perché insomma noi avevamo raccontato di questo mondo puntando il compasso dove? Sull'Italia. Tu che cosa hai fatto? Ci eravamo focalizzati sull'Italia, sul Made in Italy, che poi era in qualche modo il Live in Italy. Però abbiamo scoperto in rete tutto un altro mondo, o meglio tanti altri mondi, che sono gli italiani all'estero che hanno deciso di lasciare il posto fisso e di andare lontano, molto lontano, e mettersi appunto in proprio. Ecco, noi dedicheremo un paio di puntate, adesso vediamo, a questi personaggi che insomma che ci ascoltano oltre confine, o che se non ci ascoltano scaricano il podcast, ma prima le news. Adolescenti pazzi per gli SMS. Storia vecchia in Italia. Negli Stati Uniti invece è notizia. Secondo uno studio di Pew Internet e American Life Project, un terzo degli adolescenti americani che ha un cellulare manda oltre 100 messaggi al giorno, più di 10 ogni ora, contando che di notte si dorme, almeno in teoria. 2,8 milioni i conti di gioco utilizzati almeno una volta nel 2009. Di questi, il 64% ha movimentato mediamente meno di 100 euro al mese. Questi i numeri del gioco online emersi da uno studio condotto dall'Osservatorio della School of Management del Politecnico di Milano. Considerando il rigioco delle vincite, si legge in una nota, la stragrande maggioranza dei giocatori spende meno di 20 euro al mese, in media naturalmente. Google dà i numeri della censura. Il motore di ricerca ha lanciato un nuovo strumento contro la censura che mostra il numero di richieste di dati degli utenti o di rimozione di contenuti ricevute nel corso degli ultimi 6 mesi del 2009 da parte dei governi. Riguardo alle richieste di rimozione di contenuti, in testa si trova il Brasile con 291, poi c'è la Germania con 188, l'India con 142, gli Stati Uniti con 123. L'Italia è settima con 57. Nella classifica non compare la Cina, finita più volte nel mirino per la censura su internet. Sulla mappa, al posto del numero corrispondente, appare un punto interrogativo e la seguente spiegazione. La Cina considera le richieste di censura segreto di Stato. Al momento, quindi, non possiamo fornire questa informazione. Ritorniamo in studio, siamo in collegamento con Giampaolo Colletti. Oggi insomma andremo un po' in giro per il mondo. Partiremmo dagli Stati Uniti, dove è in collegamento Luca Chan. Buongiorno. Esatto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Dove si trova esattamente? Io mi trovo in una cittadina che si chiama Ann Arbor, nel Michigan, che però è una cittadina campus nell'area suburbana di Detroit, quindi... Allora, prima di capire che cosa ci fa in quel luogo, sentiamo la scheda che ha redatto Giampaolo Colletti. Nell'italianissima fuga dei cervelli può capitare di imbattersi in chi, nonostante abbia avuto una docenza e quindi un posto fisso, decida comunque di mollare tutto e diventare WW Worker. Questa è la storia del più giovane docente universitario italiano, che un bel giorno ha deciso di rinunciare alla cattedra e di trasferirsi all'estero. Luca Chan prima era un professore di psicologia del lavoro all'Università di Trieste. Luca si è scontrato con un magro stipendio e l'assenza totale di fondi di ricerca. Così ha rinunciato ai corsi già vinti e fa i bagagli. Destinazione Ann Arbor, in Michigan, una cittadella campus vicino Detroit. Ora fa lo studioso indipendente alla Ross Business School, una delle 5 migliori business school al mondo. Luca scrive articoli e ricerche e collabora con i docenti statunitensi. Usa la rete come strumento di lavoro e dubita di tornare in Italia, almeno per ora. Allora, Giampaolo, innanzitutto raccontaci come hai trovato Luca Chan. Ma Luca l'ho trovato in realtà nello spostamento che l'ha portato dall'Italia, quindi dall'Università di Trieste, agli Stati Uniti. Ed è stato un po' per caso, però poi in realtà ho scoperto che ci sono tanti ricercatori che dall'Italia decidono di andare all'estero, però questo è il paradosso di Luca, abbandonano il posto fisso, anche una cattedra pagata, magari male ma pagata, e decidono di mettersi in proprio. Allora, insomma, così sembri un eroe, Luca. Cioè, che cosa è successo realmente? Anche perché, insomma, il tema dell'università in Italia, sai benissimo, è caldissimo. Infatti, tanto più in questo periodo qui. No, in effetti, finita l'università, io ho avuto anche una bella esperienza all'università italiana, nel senso che fino da subito hanno creduto in me e appena finita l'università ho iniziato il dottorato in un'università e nell'altra ho iniziato subito a insegnare. Molto giovane, tant'è che iniziavo a mettere anche gli occhiali per sembrare un attimo più vecchio. Ma quindi tu sei il classico cervellone, cioè sei però, il cervellone in fuga, sì. No? Esatto. Poi però cosa è successo? Che mi rendevo conto che in ogni caso la situazione era piuttosto critica in Italia. Certo, potevo però continuare a fare la mia attività. Tu sostanzialmente, Luca, tu sostanzialmente avevi uno stipendio fisso. Cioè, è vero che è bassissimo lo stipendio dei ricercatori, però quantomeno la tua vita era in un certo senso rassicurante e rassicurata. Sì, avevo... Perché negli Stati Uniti non funziona così, anzi è piuttosto dura tenere il passo. No, sicuramente sì, non è stato facile, e tanto più con la mancanza di fondi che c'era all'università, avere uno stipendio fisso al mese è stato insomma, quasi un miracolo. Però poi mi sono reso conto che a parte i colleghi ottimi con cui mi stavo rapportando, che il sistema in generale non era quello che faceva per me, nel senso che mi rendevo conto che almeno nel mio settore si rasentava sempre la mediocrità, non sarei mai riuscito a fare qualcosa di veramente competitivo o qualcosa di nuovo a livello internazionale, mancando... Ma adesso sei soddisfatto? Stando nel Michigan? Io lo sottolineo così. Sì, mi sono arrivato qui e sono in ottima scuola, una delle migliori di business. E diciamo che l'avventura sarà questa, sono ancora agli inizi, nel senso che sono qui e mi valuteranno per un anno, quindi potrà andare bene, potrà andare male, e se mi andrà male mi reinventerò. Ecco, hai detto la parola giusta, Gianpaolo, cioè, hai sentito? Sì, ha detto la parola giusta, reinventarsi, ma anche un esempio di come in un paese arroccato sulle poltrone, anche più di una, ecco, lui ha deciso di lasciarla la poltrona. Tra l'altro i WW Workers dell'altro mondo, so che questo gioco di parole, Luca, ti piace, quelli che decidono di andare all'estero e di lasciare il posto fisso, beh, questi lavoratori in realtà fanno un doppio salto mortale, rischiano in prima persona in una terra che non è la terra natale, ecco, quindi... C'è una buona dose di coraggio. È anche un gioco di parole per introdurre il secondo ospite, che è Concezio Natale. Era tutta studiata sta cosa qui. A tavolino. Concezio Natale invece sta in Irlanda, se non sbaglio. Buongiorno. Ciao Luca, sì, ciao, buongiorno. Io sono a Dublino. Che tempo fa? Ma oggi è bellissimo. Allora, oggi è veramente bello. Allora Natale, facciamo una cosa, lanciamo la scheda, poi noi diamo la linea al traffico e torniamo subito dopo in studio. Per cui prima la scheda sulla storia di Concezio Natale. Ha lasciato l'Italia 2 anni fa, ma ormai la sua attività da WW Worker è tutta incentrata sul suo paese natale, precisamente sulla Puglia, raccontata con foto, video e documenti storici. Paradossi degli italiani all'estero. Concezio Natale, trentenne pescarese di nascita e pugliese di adozione, vive ora a Dublino. Ha lasciato in Italia un lavoro da impiegato nell'ufficio commerciale per una ditta di cucine. Con la fidanzata pugliese e trapiantata a Dublino, ha acceso discoverypuglia.it. Sul portale si propongono e vendono itinerari pugliesi, percorsi di relax, alla scoperta delle tradizioni storiche, artistiche e culinarie. E a proposito di cucina, non mancano le serate pugliesi organizzate in Irlanda con la comunità di italiani all'estero. La Puglia è nel cuore e soprattutto a tavola. Nova Lab 24. Allora, bentornati in studio. Io sono in collegamento con Giampaolo Colletti e con Concezio Natale dall'Irlanda, precisamente da Dublino. Abbiamo sentito nella scheda la sua storia. Giampaolo, anche qui la stessa domanda. Com'è che l'hai trovato Natale? Beh, questa è una storia ancora più particolare, perché Concezio ha messo in piedi un business legato al turismo sulla regione Puglia, però in realtà stando in Irlanda, a Dublino, e quindi è l'esempio di come in realtà si può raccontare le meraviglie anche italiane, però stando molto lontano. Ecco, ma è così, Concezio? Sì. Poi, Concezio è un nome stranissimo, no? Solo so. Per me? No, non solo per te. Cioè, a Dublino comunque, che cosa ti dicono quando dico Concezio, cosa vuol dire? No, sicuramente lo pronunciano meglio gli italiani. Sicuramente meglio, meglio di me, questo è poco ma sicuro. Quindi dici che ci manca, io chiaramente questa stupidata devo dire subito, ti manca l'Italia, vuoi tornare? Uno che no. Mi dici, no, ecco, uno lo troveremo, Giampaolo? È difficile, Luca, è difficile. No, perché non ti manca l'Italia, Natale? Ma perché non ci sono le condizioni per poter star bene in Italia, solo per quello. Per cui preferisco farci le vacanze e mandare dei turisti in vacanza in Italia. Perché peraltro, cioè, l'Irlanda in questo momento, in questi ultimi due anni, non è che se la stia passando benissimo rispetto a noi, eh? Per cui, infatti, io voglio capire anche com'è il mercato del lavoro lì. Beh, il mercato del lavoro qui, oddio, ti dico, c'è stato lo sgonfiamento di quella che era la bolla data dalla tigre celtica qualche tempo fa. Chiaramente le vittime, tra virgolette, chiamiamole così, sono state abbastanza. Adesso la situazione sta tornando lentamente alla normalità, ma è chiaro che dopo una botta del genere, insomma, ci vogliano anche un po' più di... Ecco, di risorse, di tempi di ripresa un po' più lunghi per far tornare tutto a posto. Ecco, Natale, cioè noi abbiamo raccontato in questi mesi il fenomeno appunto dei www workers. Io non lo saprò mai pronunciare e odierò per tutta la vita Colletti per aver inventato questo nome, ma nel senso, chi sono? Sono persone che hanno lasciato il posto fisso o sono stati lasciati a spasso dalle aziende e che in un qualche modo si sono reinventati, vuoi utilizzando internet oppure facendo ricorso alla propria creatività. C'è un fenomeno di questo tipo anche in Irlanda? Sì, è molto diffuso, soprattutto per quanto riguarda appunto i blogger professionisti che hanno un seguito e anche dei rientri economici notevoli. Sì. Ecco, Giampaolo, loro parlano di, cioè lui parla di blogger professionisti. Adesso proviamo a capire anche che cosa ci andrai a raccontare nelle prossime puntate. Cioè, quello che volevo capire con te oggi e poi riprenderlo prossimamente è anche che tipi di racconti ti stanno arrivando e come fanno ad arrivarti queste storie. Da dire, Luca, che i blogger invece italiani fanno fatica a campare rispetto invece ai mercati magari statunitensi e irlandesi, come ci ha detto Concezio. Ad oggi in realtà stiamo mappando su www.workers.it le storie di chi ha lasciato il posto fisso e si è messo in proprio. Sono arrivate 271 schede aggiornate proprio ad oggi e in realtà alcune, anche grazie a questo lancio che abbiamo fatto sui mercati esteri, riguardano anche questi lavoratori dell'altro mondo, cioè gli italiani all'estero. La tendenza in realtà è che anche all'estero c'è per questi lavoratori italiani che decidono di andare all'estero il supporto di amici e parenti anche da lontano. E soprattutto ci sono delle strutture di protezione che sono legate anche alla creazione di micromedia territoriali nei vari luoghi dove si va. Insomma, gli italiani all'estero cercano di fare anche comunità. Queste comunità sono molto forti. Tra l'altro spesso da questi contatti di lavoratori mi hanno dato altre indicazioni per altri amici e colleghi che sono arrivati dall'Italia. Quindi c'è un sistema Italia all'estero che si muove. Ecco, quindi Giampaolo, facciamo il giochino, come funziona? Che noi li contattiamo, anzi tu li contatti attraverso internet e poi li facciamo parlare attraverso la radio e poi magari se non sono in Italia possono scaricare sempre il podcast da internet, per cui insomma in un qualche modo riusciamo a raggiungerli tutti, a farli parlare, a farci raccontare la loro storia. E che so, quali sono le ambizioni, Giampaolo? Siamo in chiusura. Adesso stiamo mappando su www.workers.it tutte le professioni. L'idea è capire quali sono le professioni più da www.workers. E ti stupirò, Luca, in realtà non tutte sono legate alle nuove tecnologie. Chi arriva in rete fa altro rispetto alle nuove tecnologie, come lavoro puro. Allora, io ringrazio Giampaolo, ringrazio Luca Chan dagli Stati Uniti, ringrazio Concezio Natale dall'Irlanda. L'appuntamento è la prossima puntata con Giampaolo Colletti. Arrivederci, a presto. Nova Lab 24.